sta succedendo quello che era inevitabile che succedesse all'interno di una situazione in cui il fascismo, se non dilaga, quantomeno direi che fa enormi passi avanti. Chiaramente questi passi avanti non è che hanno escluso per diritto divino il mondo del libro e della cultura, che è un comparto industriale come un altro e che come tale chiaramente consente ai fascisti con i loro appoggi istituzionali e governativi appunto di fare dei passi avanti. Certo è che la cosa interessante, ma secondo me è prevedibile anche questa, è che alla fine di tutte le polemiche il punto è diventato non che se ne devono andare i fascisti, ma che se ne deve andare la Red Star Press. Cioè il punto non è che non si devono esaltare i criminali nazisti, ma il punto è che non si deve pubblicare e diffondere la storia e la cultura del movimento operaio, delle lotte di liberazione contro il patriarcato. E tutto questo è stato incarnato dalla Red Star Press, probabilmente perché è una casa editrice che per statuto si occupa di storia e cultura del movimento operaio e che lo fa in maniera esplicita e in maniera diretta, anche cercando di articolare figure e passaggi storici alla luce della contemporaneità. È un po', come dire, una riproposizione della teoria degli opposti estremismi, dove però uno di questi estremi è il fascismo. Certo, ma è una storia sicuramente molto diversa. Io credo di non dover ripetere che non ci sono termini di paragone in grado di rendere accettabile il nazismo e non credo di dover ripetere in maniera particolare che la storia e la cultura del movimento operaio, il movimento operaio stesso, non hanno nulla da cui difendersi, anzi, hanno sempre un mondo da guadagnare. Il punto è qual è? Il punto è che quello che è successo è che la polemica rispetto alla presenza dei fascisti all'interno del contesto di Più Libri Più Liberi e del mondo della cultura in generale, nei fatti si è trasformato in un attacco alla Red Star Press, nel senso che se andiamo a vedere i minuti dedicati dai telegiornali, le pagine stampate dai giornali e vogliamo mettere su una bilancia gli attacchi ai fascisti o quelli alla Red Star Press o quelli alla storia e alla cultura del movimento operaio, vediamo che la bilancia è completamente squilibrata. Oggi la Red Star Press viene indicata come un bersaglio da dare in pasto agli squilibrati, tra virgolette, di turno e chiaramente anche dovrà in qualche modo fare i conti con una situazione in cui una certa pavidità potrebbe portare a tante esclusioni della casa editrice. Quindi, da questo punto di vista, certamente al momento si può dire che l'operazione dei fascisti sta avendo più successo di quello che ci possiamo immaginare. Temete quindi delle ripercussioni? Ma noi temiamo sempre delle ripercussioni, perché comunque nel momento in cui si fa la storia e la cultura del movimento operaio a testa alta, in maniera esplicita, in maniera chiara, ci mancherebbe che non sia anche in maniera legittima, non è che va bene a tutti e a tutti. Questa cosa noi ne siamo consci, cioè noi siamo all'interno di un percorso che comunque si basa su un'idea di giustizia sociale. Il nostro motto principale è che cosa ci facciamo con un libro se non ci abbiamo un lavoro decente e neppure una casa. E allora per avere giustizia sociale, per dirla in termini banali, bisogna togliere ricchi per dare a tutti e a tutti, no? E però ecco, i ricchi con le loro articolazioni, alcune in doppio petto, altre in camicia nera, non è che proprio sono contenti di questo. Un'ultima cosa invece più in generale sul mondo dell'editoria e delle fiere, perché non è la prima volta che si solleva il caso, chiamiamola così, infiltrazione dell'estrema destra, dei neofascisti in queste fiere. C'era stato anche il Salone del Libro di Torino con la casa editrice Altaforte. Ci sono strumenti, diciamo, o riflessioni che si possono fare per non arrivare sempre ad avere questi casi che poi scoppiano quando poi i giochi sono già stati fatti spesso? Beh, questa è la domanda da 1 milione di dollari, perché potrebbe essere rivolta a qualsiasi settore del vivere sociale. È evidente che c'è, anche per quanto riguarda l'editoria, per quanto riguarda non soltanto gli editori in qualche modo di movimento, ma più in generale a un'area democratica che comunque rifiuta il fascismo, ed è chiaro che c'è un ritardo rispetto alla possibilità di trovare comunque intanto una posizione collettiva, una modalità d'azione comune, chiaramente delle indicazioni che possano essere chiare anche a livello comunicativo. Il tutto, io direi, sempre con il supporto il più largo possibile, non di chi semplicemente, diciamo così, lavora nell'editoria, ma di tutti e tutti, perché questa non è una vicenda che si può compartimentare all'interno di una fiera. Qui certamente c'è un ritardo, c'è una difficoltà, a me sembra evidente, però credo anche che dobbiamo cercare di colmarla il più velocemente possibile. Certamente in questi giorni fra determinati editori, appunto, di Area Democratica si promette di vederci immediatamente in maniera assembleare per cominciare ad articolare delle possibilità d'azione. Questo però non è facile, perché gli editori non sono una classe sociale, non hanno un'origine di classe più o meno omogenea, non hanno dei percorsi così sovrapponibili, anche se magari tutti fanno i libri, ma dietro ci sono tantissime differenze, quindi è complesso. Chiaramente non è una strada che va abbandonata quella di trovare un'unità rispetto a un'azione antifascista anche nell'ambito editoriale, ma questa deve essere supportata, guidata, partecipata in maniera larga da tutta la società civile, dai compagni e dalle compagne. E questa è una sfida che riguarda tutto e tutti, perché oggi non è che abbiamo il problema se ci siano più o meno libri, ma oggi abbiamo il problema che di sicuro ci stanno più sfratti, meno case popolari, più malattia, meno sanità, più analfabetismo, meno scuola, più femminicidi, meno consultori. Ci abbiamo oggi una situazione in cui c'è più fascismo, meno democrazia. Certo. Non è che è un problema delle case editrici, certamente hanno un ruolo importante, perché la cultura ha un ruolo importante, ma deve essere comunque partecipato dagli antifascisti nel loro complesso tutto questo percorso, che chiaramente ci dice che dobbiamo rialzare la testa, che dobbiamo essere efficaci, che non dobbiamo fare passi indietro, che non dobbiamo far passare idee e posizioni che però purtroppo stanno passando, che riguardano l'oppressione degli operai, il loro licenziamento. Vediamo quello che è successo a Genova adesso con l'Ilva. Allora dobbiamo immaginare che quella roba vada supportata a partire chiaramente anche da un contesto come quello di Più Libri e Più Liberi, perché la cultura che cosa fa? Sostiene ipotesi che guardano al futuro, dice che i servizi strategici vanno nazionalizzati, dice che le fabbriche vanno riconvertite a usi civili, dice che il territorio è un patrimonio che va curato e deve essere destinatario di investimenti che preservano l'ambiente. Questo dovrebbe essere il ruolo della cultura, e chiaramente, voglio dire, nel momento in cui si guadagna protagonismo da questo punto di vista, col sostegno di chi vive del proprio lavoro, con la classe operaia, con gli oppressi, con gli sfruttati, con gli ultimi, con i migranti senza permesso di soggiorno, con le donne che vedono la loro condizione deteriorarsi, questi sono i soggetti con i quali noi speriamo di poter fare dei passi in avanti, perché o facciamo dei passi in avanti tutte e tutti insieme, oppure verremo annientati individualmente, chi sul posto di lavoro, chi dentro la fiera del libro, chi per strada, perché insomma siamo in un contesto dove la situazione peggiora